La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16.31 primi 45 secondi in diretta da Milano. Vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast. Come sempre qui alla versione di Oscar, Oscar Giannino. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Per tra tutti gli altri argomenti arrivano anche lettere sul tema uscita dall'euro, la Francia e così via. Io provo a rispondere a tutti, tra l'altro un paio lamentano di no ieri, però ho risposto che sono andato anche a cercare, forse sono finito in spam, quando dico rimandatemele è per quello, perché comunque io le lettere tento di rispondere davvero a tutti, ma soprattutto continuate anche a scrivere per rendervi disponibili a puntate come questa, lo sapete, la serie Italia non per giovani, per la formazione o per il lavoro, chi va fuori e ci spiega come ha fatto e perché è riuscito, se è riuscito o se è tornato indietro o invece ha deciso di rimanere qua, pur essendogli chiaro che insomma non siamo proprio il massimo come situazione dal punto di vista dell'inserimento nel mercato del lavoro e della offerta di formazione in grado di dare davvero quelle competenze che poi servono davvero sul lavoro. E quindi cominciamo anche quest'oggi due testimonianze. La prima è di una persona che in realtà mi sta molto a cuore, perché io ho una corrispondenza con lui che è data indietro da più di 4 anni. E da questo punto di vista quindi è un ascoltatore, per così dire, che mi sa molto caro, ho moltissime lettere sul tema, ho visto in questi 4 anni la sua convinzione diventare un po' meno ottimistica, a dire la verità, perché in una che ho in mano dell'ottobre 2012, che partiva dalla descrizione del quadro di pellizza da Volpedo sul quarto stato, che ha una storia tutta particolare perché il suo autore si suicidò perché non riuscì a venderlo, e di lì poi partì la raccolta di fondi del Corriere della Sera per acquisire e il quadro si vede ancora oggi al Museo del Novecento a fianco al Duomo a Milano, e diceva a un certo punto: nella vita ho amato ugualmente ogni lavoro che ho fatto, dal marmista al raccoglitore di zucchine in Australia, all'insegnante di matematica presso l'università di McKinney in Sierra Leone, ma molti ragazzi in Italia crescono intorpiditi e quindi alla fine diventano frustrati. Io ho un futuro davanti a me, ma ugualmente mi incazzo. Ecco, nel frattempo, nel tempo, direi, magari sbaglio, ma adesso ce lo dice lui, che motivi di perplessità e di incazzatura si sono un po' accumulati, perché nel frattempo la lettera dalla quale poi abbiamo deciso di farlo venire in trasmissione è una lettera nella quale, leggendo i redditi comparati che erano pubblicati qualche settimana fa della famiglia Tipo, dove si riportava il reddito medio lordo degli impiegati e degli operai, alla fine il riscontro con quello che prende lui lo ha portato ad amare considerazioni. Grazie di essere con noi, Eugenio De Martini. Buongiorno, anzi buonasera, buon pomeriggio, grazie a te. Da 0 a 10 incazzato 1000. No, però ammettilo, nel 2012 eri molto più speranzoso. Sì, era un periodo un po' particolare, in cui qualcuno dava una proposta politica particolare, ma non faremo nomi e cognomi. No, perché fallita. Ma non era per quello, perché tu parlavi di una prospettiva di vita. Cioè No, certo, adesso era una battuta, perché insomma, erano prima dei miei 30 anni. Poi c'è il momento in cui li festeggi e poi vabbè. Allora, prima di arrivare non a questa... c'era stato il 2013, che è stato particolarmente brutto. Prima di arrivare a questa comparazione, spieghiamo, tu di dove, che parte d'Italia sei, qual è la tua formazione? Allora, io sono milanese di Milano e sono un tecnologo alimentare, cresciuto qui in seno a questa città. A me piace viaggiare, quindi ho fatto come molti degli studenti Erasmus, poi sono stato appunto in Australia a raccogliere zucchine per imparare l'inglese, poi sono tornato magistrale, dottorato in economia e politica agraria, e ho avuto difficoltà, ma poi dopo sono attualmente ricercatore presso l'università, quindi insomma è andata abbastanza bene come carriera e vedo ancora un futuro, il problema è dove lo vedo questo futuro e insomma sai tutte quelle perplessità che possono venire riguardo a come sto investendo, principalmente a come sto investendo il mio tempo, forse il tempo migliore per crearsi un futuro. Ecco, il vero problema è quello. Tu sei un ricercatore a tempo determinato? Sì, Sì, in realtà ho appena chiuso la fase, insomma sono uno dei primi ad essere entrati, diciamo la seconda tornata reale della nuova figura di ricercatore a tempo determinato, e quindi diciamo che sì, lo sono, da curriculum. E sì, dici sì. Che sei più giovane ricercatore a tempo determinato proprio perché sei in questa seconda fase, esatto, di tutta la tua università, a 33 anni, perché i colleghi con la tua stessa qualifica al dipartimento ne hanno 45. Esatto, più o meno. Insomma, l'età è quella lì, ma per questo perché evidentemente l'università non è stata capace di creare una carriera per tutti. Molte persone effettivamente non vivono serenamente questa cosa, e molti altri con magari un'età molto maggiore alla mia sono ancora in attesa della speranza di poter partecipare a un concorso. Questo perché mancano le risorse, o forse perché le risorse che ci sono vengono usate, diciamo, non nella maniera in cui dovrebbero essere usate. Questo lo sappiamo. Però veniamo al dunque. Sei più giovane ricercatore a tempo determinato, con una laurea tecnologica e un dottorato in scienze estimativo, esatto, sociali. Guardando la media comparata delle retribuzioni lorde italiane, faccio un lavoro da impiegato con paga da metà meccanico, cioè nel senso che io avevo utilizzato questa ponendomi a metà tra il reddito medio di una famiglia di impiegati sui 50.000 euro e quella di un impiegato di 25, siccome i ricercatori prendono 35.000 lordi l'anno, io sto lì, e questo io dovrei rappresentare, diciamo, il fiore all'occhiello forse della mia generazione. Adesso, a parte l'immodestia, ma oggettivamente evidentemente un'istituzione importante come l'università punta teoricamente su quelli che formeranno il futuro, e veniamo pagati così, insomma. Ripetiamolo, perché già vedo partire di che ti lamenti. Stiamo parlando del lordo, quindi levateci tutto e ne rimangono 20.000. Sto a Milano, nel senso che non è che costi poco. Ne rimangono 20.000 l'anno, e dici difficilmente, se avessi una famiglia da mantenere a Milano, riuscirei a potermi permettere di aspettare ancora una carriera così lunga come quella che mi si prospetta per stare un po' meglio. Perché ovviamente siamo a tempo determinato, quindi comunque quando finisci di lavorare devi aspettare una nuova possibilità, poi c'hai la NAPS, tutto quello che volete, però oggettivamente viene difficile poter immaginare di dover, come dire, saltare da un lavoro all'altro senza avere l'ansia. Ok, questo è il problema di base. Sto facendo la scelta giusta? Questo è il problema dell'Italia, che non è un paese per giovani. E soprattutto la scelta, che costo ha stare qui? Questa è la cosa che mi sveglio la mattina e penso. Cioè, sto bene, faccio quello che mi piace, ma ci sto perdendo a fare questa roba qua? Allora, tu lo sai, parliamo un secondo dell'università italiana. Sì. Tu lo sai che in realtà questa nuova fascia deriva dalla necessità di sistemare questa, che quella dei ricercatori, che è una delle tantissime figure che hanno proliferato l'università italiana dai tempi del ministro Guia, addirittura della prima repubblica, eccetera eccetera. La politica si inventò nell'università italiana una giungla di figure che non esistono come equivalenti nelle altri paesi avanzati, dove non c'è la giungla del precariato nel sistema della formazione che abbiamo avuto noi, arrivando a quasi 300.000 unità di precari, e gli assegnisti, i borsisti, eccetera eccetera. Nel proliferare negli anni di queste figure, di volta in volta promettendo alle elezioni quote per la messa in ruolo per le abilitazioni le fasce di insegnamento universitario, anche il ricercatore nasce con queste prospettive, fino al punto in cui era diventata una cosa in cui in realtà il ricercatore serviva a didattica, a differenza di quello che diceva il nome, con un'età media sempre più elevata, e poi alla fine arriva questo intervento molto contestato anche da chi ha detto: e adesso ci mettete il tempo determinato, cioè ci avete illuso per tanti anni, e poi questo è l'intervento. Quante generazioni di ricercatori di età avanzata ti è toccato in questo anno di vedere, e immagino di ascoltare le loro frustrazioni per come la politica si è comportata nei loro confronti? Direi che c'è un bel giovani siamo veramente pochi. Se guardo alle facoltà che conosco, i ricercatori sono tutti in una fascia da frustrazione, nel senso che poi tra l'altro le carriere, giusto per dare una, giusto per spiegare esattamente magari un po' di più, le carriere tra chi come noi RTD giovani vorrà fare carriera, paradossalmente potrebbe essere più facile arrivare in cattedra rispetto ai ricercatori che rimangono fermi. Storici. Sono, rispetto a quelli storici, perché ovviamente sono una figura che viene definita in esaurimento. Esattamente. Già che ti chiamano in esaurimento, pensi che sei, cioè che andrai in esaurimento nervoso, perché non è proprio non è abilitante. No, no, è come dire, ti diamo il cartellino, ammettiamo a decenni di distanza che tu sei stato un errore della storia e rassegnati, no? E quindi c'è una sorta di corsa ai primi posti per fare questa, questo scatto verticale verso la cattedra, che per molti e per molte, no, per tutte le persone legittime, che per, se per decine d'anni sono rimaste lì, è legittimo almeno augurarselo. C'è questa specie di ansia, non di questa specie, questa ansia reale dell'arrivare lì, ed è normale. Il problema è che si creano anche, no, dei conflitti intergenerazionali, perché vabbè, io voglio dire, sono in un ambiente come quello di Milano che è relativamente ricco, ma ci sono delle facoltà da questo punto di vista, almeno mi raccontano i colleghi che sono in altre parti d'Italia, che sono disastrate, non hanno posti ma ce li avranno, e quei pochi che hanno sono soltanto appunto per nuove figure, questi fantomatici ricercatori a tempo determinato. E quindi c'è questa frustrazione continua e ti chiedi come farai. Ma perché, avendo girato il mondo un po', hai scelto l'università italiana? Perché, diciamo, perché per formazione, essendo tecnologo alimentare, l'agroalimentare italiano è davvero un fiore all'occhiello. Io lo reputo ancora più forte, diciamo, della, cioè una manifattura forte quasi come quella della moda. Se ne parla troppo poco, ma la fase di trasformazione è la migliore al mondo, in tutti i termini. Cioè, sì, e poi vabbè, c'è anche tantissima, la chiamo biodiversità, biodiversità dello scaffale. Cioè, ci sono una quantità di prodotti in Italia eccezionali, tutti di fascia altissima a prezzo basso. E quindi insomma a me piace stare qua a fare questo, in questo posto, perché è il posto migliore del mondo. Cioè, abbiamo l'arte, la moda e il cibo. E quindi potrei provare a competere in un altro mondo, però non so se lo voglio davvero. E poi perché insomma. Però hai detto che il problema, tra virgolette, di quanto ti costa, te lo poni tutti i giorni. Tutti i giorni, perché effettivamente più tempo, cioè perché lo dico al primo giorno di lezione ai miei studenti quando gli faccio microeconomia, il costo della scelta non è un costo economico in senso di i soldi che caccio fuori, ma è il costo di quello che rinuncio, quello a cui rinuncio. Cioè, faccio un esempio, se andassi a fare il borsista postdoc in un'università americana, probabilmente guadagnerei di più, detta proprio così. Probabilmente guadagnerai di più che qua a fare il ricercatore con una cattedra, perché noi facciamo, cioè abbiamo dei corsi, certo, affidati. E allora come puoi sperare che rimangano qui i migliori? Cioè, questo è quello che mi chiedo io. Come puoi sperare che di conseguenza le generazioni saranno istruite da persone adeguate? Perché gli incentivi, altra seconda grande regola economica, le persone reagiscono agli incentivi. Se l'incentivo è un disincentivo, le persone reagiscono in maniera opposta a quella che ti aspetti te. I migliori si levano, cioè vanno via da qua. Allora io posso solo dirti, Eugenio, che secondo me hai spiegato anche dal punto di vista microeconomico in termini molto efficaci qual è il vero motivo per cui i migliori se ne vanno. Stiamo parlando dell'università, quindi di un ascensore sociale per definizione di chi ha meno, e io apprezzo molto che anche tu dica ai tuoi studenti che bisogna fare il calcolo attuariale di ciò a cui si rinuncia, e non solo rinuncia in termini potenziali per il futuro, non solo ciò a cui si rinuncia che già hai oggi, cioè la famiglia, la casa, la macchina, queste cose qui garantite dalla famiglia. Detto questo, c'è bisogno di persone come Eugenio che alla fine decidano di impegnarsi qua. Chissà, forse nella loro generazione, speriamo, l'università riuscirà a cambiarla in maniera tale da premiare chi ha più testa e da non farli invecchiare però in maniera atroce a quattro soldi, perché altrimenti i migliori continueranno ad andarsene. Grazie Eugenio, un abbraccio, tanto noi continuiamo a scriverci, alla prossima. Alla grande, ciao. Traffico. Ciao. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta. Nel frattempo le agenzie battono una fulminante dichiarazione di Salvini, del leader della Lega, il cui approfondimento lascio poi a Focus Economia, che ci segue subito, quindi controllate sulla 24, perché il leader della Lega dichiara: se il decreto legge sulle banche resta così com'è, circondiamo il Senato. Ecco, mi limito a dire che è questa l'intenzione. Sorrido solo perché evidentemente i motivi di dissenso sono molto radicali, come vedete. E poi su Focus Economia tutti i particolari della giornata dei mercati e la giornata economico-finanziaria. Allora, aspettate, perché intanto almeno vi do un pochino la spiegazione anche di quello che ha detto Salvini, perché sennò giustamente sembra quasi che ci sia un colpo di Stato in corso. No, però la prima di Salvini è questa, vi leggo: il palazzo alle nostre spalle sta truffando gli italiani, tiene nascosti i nomi di quelli che si sono intascati milioni di euro dalle banche senza restituirli, e nello stesso tempo il PD e il governo prendono circa 100 milioni di euro e li destinano ad una gara di golf, perché è uno degli emendamenti, non avete sentito parlare, che non c'entra niente col decreto inserito nel decreto, che non dovrebbe restare però in attesa al decreto, poi vediamo. E la polemica è sul fatto che alla fine la lista famosa di cui aveva parlato lo stesso presidente dell'ABI, pubblichiamo le liste dei creditori insolventi delle banche, è stata molto ristretta nei loro criteri, quindi a tutti gli effetti la lista non c'è più. Quindi queste sono le ragioni di fondo che hanno spinto Salvini a quella dichiarazione che vi ho letto prima. I banchieri, continuo a leggere, vengono salvati e vengono aiutati gli amici degli amici, noi chiediamo che venga fatta chiarezza, se però un decreto così com'è, questo palazzo noi lo circondiamo. Ok, secondo ospite per la nostra serie Italia non per giovani. Questa è la storia invece, quella di Eugenio Era. Io rimango, anche se le condizioni sono inferiori a quelle di un'università straniera, però nell'agroalimentare io mi sento di dire che qui c'è l'eccellenza, anche se mi è chiaro che altrove prenderei di più. Questa invece è la storia di uno che ringrazia, di un ascoltatore, c'è un ascoltatore che ringrazia perché ha colto le occasioni per andare via, e ci spiega come e perché. Giuseppe, che è collegato da Amsterdam, credo? Sì, esatto. Ciao Oscar, grazie per l'invito. No, grazie a te per aver scritto la tua bellissima lettera. Tu sei nato e cresciuto ad Avellino. Esatto. Di una, diciamo così, reddito medio, la tua famiglia? Sì, sì. Diciamo, mai avuto problemi, ecco, una vita agiata. Ha una vita agiata, quindi non stiamo parlando di un reddito bassissimo, per così dire. No. E mi dici, durante l'estate della mia giovinezza frequento un college svizzero, già questo appunto dice che insomma non per tutti, ma comunque per imparare l'inglese. Mm-hmm. Sì, diciamo era un po' di abitudine per i ragazzi a quell'età, a quei tempi, forse non di andare da soli in un college svizzero, piuttosto di andare in compagnia in college inglese. Sì, di solito, insomma, io stesso, un quartiere operaio, andavamo a divertirci un pochino a Barmouth, in Inghilterra, in qualche posto, tramite le scuole, così, presso le famiglie, vabbè, ma comunque insomma. No, quindi lì ho imparato la lingua e ho vissuto queste settimane estive in un ambiente multiculturale che mi ha segnato. Primo approccio con l'estero. Poi ti sei laureato in? Mi sono laureato in ingegneria gestionale a Napoli. Che, diciamolo, è una chiave multiaccesso, perché ingegneria gestionale è una delle cose che veramente consente, per la metodologia insegnata, eccetera, eccetera, una pluralità di occupazioni e canali presso i quali poi mettere a frutto. L'hai fatto a Napoli perché era vicino a Napoli? Per carità di Dio, non voglio esprimere, però nel ranking dei politecnici italiani non è proprio in posizione altissima, questo lo sapevi però. Ma insomma, penso sia comunque una buona, non il terzo, insomma, esatto, sì. Sì, non Milano e Torino, ma ecco, però insomma una buona esperienza. È una buona esperienza. Ho scelto Napoli perché volevo rimanere, diciamo, vicino alla mia città. Vabbè. E dopodiché inizi a lavorare presto, subito dopo la laurea. Sì, a cavallo della laurea ad Avellino, in un'azienda. Ti cercano agricola. O cerchi tu? Cerco io in uno stage non retribuito, inizio insomma a però vai a lavorare vicinissimo a casa, perché la Mastro Berardino la conoscono più o meno tutti, l'azienda vinicola della Vendinese, sì. Quindi stavi sì. È una buona esperienza? Ottima esperienza, devo dire, azienda medio grande nel settore, piccola diciamo in un contesto più generale. Mi occupo di efficientamento del processo produttivo, e quindi da quel punto di vista l'azienda iniziava a fare qualcosa, diciamo, e è stato molto, molto divertente, molto divertente, molto hands on. Eppure te ne vai? me ne vado perché finito, diciamo, questa reingegnerizzazione dei processi, sento il bisogno di cambiare, di andare a fare altro, sì, di scoprire, di mettermi alla prova nuovamente. E quindi nel frattempo avevo iniziato a mandare curriculum un po' dovunque, e mi chiamano dalla Pilkington, Exiv, certo. E lì insomma faccio un colloquio e vengo preso. Exiv, azienda pubblica del vetro, che aveva un impianto disastroso, poi viene preso dalla Pilkington, uno dei giganti mondiali, che invece cambia tipo di impianti e diventa invece molto produttivo, perché questo sta nella storia dei fallimenti pubblici. Voglio dire a chi ci ascolta, visto che vi racconto che ci vuole più Stato, lo Stato, ecco, lì con la Pilkington diventa produttivo l'impianto, però vabbè, questo è una osservazione. Non parliamo della Pilkington oggi, ma comunque. No, esatto, però di questo di allora, e quindi contratto sicuro, multinazionale, tutto a posto. No, il contratto Pilkington era un contratto di 6 mesi. Ah, insomma, ecco. Quindi hai lasciato scadenza, un contratto però, sicuro per uno insicuro. Esatto. Però non ti sei fermato per questo. Non mi sono fermato perché nel frattempo, insomma, i curriculum viaggiavano e ti chiamano ormai, da un'altra parte. Mi chiamano da un'altra parte, mi chiamano da Banca Opi. San Paolo IMI, branch di San Paolo IMI, che si occupava di finanza per le infrastrutture. Esatto. Quindi dal vino al vetro alle infrastrutture. Sì. Pensateci, cari ascoltatori, fare ingegneria gestionale, ripeto, è una chiave multiaccesso, perché siccome riguarda la capacità professionale di rimodificare, ottimizzare i processi organizzativi e gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista di input intermedi che dell'organizzazione degli impianti, ripeto, è veramente una delle cose per cui vale la pena questa formazione. E allora è una chiave multiaccesso. Da un altro lato, insomma, quando inizi sei un po' perso, perché insomma, hai troppi accessi, però non sei focalizzato. Allora, in banca infrastrutture. Da lì praticamente inizia la mia carriera in banche per le infrastrutture. Quindi Banca Opi, fusione con Intesa, in quel momento insomma, era un merger on equals, non era on equals, in realtà era un merger unequals, cioè, esatto. Cioè io lo dico da torinese, io non perdonerò mai un certo personaggio che ha avuto un ruolo chiave in quella fusione con Intesa, però lasciamo perdere. Quindi esodo di managers, seguo il mio capo in Cassa Depositi e Prestiti. Ma Cassa Depositi e Prestiti, quella che hai conosciuto tu, era statale e arretrata con tutti i difetti dello Stato, o era in linea con quanto avevi visto nella banca privata? Era abbastanza in linea, come ti scrivevo nella mail, era diciamo un momento, insomma, quello poi a cavallo della crisi, in cui le banche d'affari, le banche che facevano da padrone sui grandi investimenti sul mercato erano venute meno, e quindi c'erano pochi attori, e Cassa è diventato un attore importante e ha preso quindi, insomma, diciamo, un'esperienza non male, però non ti fermi, perché vai a fare un MBA alla Luiss, perché dici no, io voglio andare avanti, voglio fare un'esperienza nuova, eccetera eccetera, fai questo master, e dopodiché a quel punto ti manda CDP in BEI, alla Banca Europea per gli Investimenti di Lussemburgo. Esatto, per un secondo della durata di 3 mesi, quindi veramente brevissimo, però insomma l'esperienza è stata incredibile, ho ritrovato quella multiculturalità di cui ti parlavo. Che e a quel punto tu da Lussemburgo non ti sei più spostato, perché c'hai una moglie straniera, eccetera eccetera, e dici sì, non ci sono i cieli blu di Roma, però io da Lussemburgo non me ne vado, è così. Sì, insomma, Roma è fantastica, io sono stato benissimo a Roma, ho vissuto molto bene. Allora, ti ringrazio della testimonianza, perché noi ovviamente abbiamo il tempo che oggi è ulteriormente ridotto. Ragazzi,